giorno ho visto un uomo che saliva le scale. Gli ho chiesto scusi dove vuole andare lei. Mi ha detto vado a prendere una nuvola, la porto dove non piove mai. Ma scusi come fa a trasportare una nuvola? Mi ha detto la respiro per un po' e poi vado nel posto dove vogliono acqua. Il resto va da sé, non lo so. Il resto va da sé, non lo so. Il resto va da sé, non lo so. Un giorno ho visto un bimbo che correva per strada. Gli ho chiesto scusa dove corri bambino. Mi ha detto sto inseguendo la mia ombra, così come tu segui il destino. E se la prendo poi me la tengo, la metto in un cassetto chiusa a chiave. Così finalmente sarò grande abbastanza, sarò un capitano sopra una nave. Il vento ubbidirà i miei comandi, l'universo passerà dall'oblò come aranciata dentro l'imbuto. E il resto va da sé, non lo so. Il resto va da sé, non lo so. Il resto va da sé, non lo so. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, mi sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, mi sembra che mi fa sentire meglio, meglio, meglio. Un giorno ho visto una che lavava il denaro. Gli ho chiesto scusa che stai facendo. Mi ha detto lo pulisco così vale di più, lo compro poi lo lavo e lo vendo. Ma scusa 100 lire sono sempre le stesse, pulite e sporche valgono uguale. Lei mi ha guardato un poco stupita e poi ha continuato a lavare. La sera ho aperto il salvadanaio e di monete io ne avevo un bel po'. E in bagno ho cominciato a lavare e il resto va da sé non lo so. Il resto va da sé non lo so. Il resto va da sé non lo so. Un giorno ho visto uno che leggeva al contrario. Gli ho chiesto scusa che stai facendo? Mi ha detto ho letto libri per tutta la vita e adesso io li sto cancellando. Li rileggo tutti quanti al contrario, dimenticando quello che sono. E poi mi terrò ciò che mi resta. E il resto va da sé non lo so. Il resto va da sé non lo so. Il resto va da sé non lo so. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, mi sembra che mi fa sentire meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, mi sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, mi sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, mi sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua la mattina al mio risveglio, sembra che mi fa sentire meglio, meglio. Mi piace bere un bicchiere d'acqua, mi sembra che mi fa sentire meglio, meglio.